Sconvocati di Carlo Genta. Ragazzi, partiamo dalla cronaca, che è questa: la partita si è appena conclusa, calcio d'agosto, no, è dall'altra parte del mondo, però è sempre la Juventus al centro del villaggio, in discussioni, fatti, parole, opere, omissioni. La Juventus in Australia ha battuto il Tottenham 2-1 e brillantissimi i nuovi, oltre ai vecchi. Primo gol di Dybala dopo 6 minuti, segna Benazia dopo 14 minuti, dunque 2-0, e poi il 2-1 firmato al 67esimo da un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, chissà se tornerà, la Mela. Per ora al Tottenham. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Alvise Falzone in redazione. Dunque, Higuain alla Juve è cosa fatta. L'Inter all'Inter è una situazione, è la più interessante in questo momento. Molto nebbiosa, inestricabile, poi ne parleremo. È in programma un colloquio tra Mancini, Ausilio e boh, chissà chi della nuova proprietà cinese. E oggi c'è un fondo sulla Gazzetta dello Sport di Luigi Garlando che descrive Mancini come, in questo momento, come un uomo solo e abbandonato, e non ha onestamente tutti i torti. Poi partiremo anche col vostro aiuto, 800 24 00 24 alla ricerca del sostituto di Higuain. Chi può essere? Secondo me due le idee migliori. La prima è quella di Tevez e la seconda è quella di un altro juventino, molto più difficile da andare a prendere, molto più costoso, e si chiama Alvaro Morata, attualmente al Real Madrid, ma ci sono altri nomi e li scandaglieremo uno per uno. Intanto Napoli ferita per il tradimento, direbbe De Laurentiis, per la partenza, direbbero i normali operatori di mercato, di Higuain in destinazione Juventus, compresi i sacerdoti allibiti. C'è un sacerdote che ha parlato di Higuain addirittura nella sua omelia, ci credete? I napoletani sono tutti affranti perché ci siamo venduti Higuain, la Juve se lo è preso. Ma io sfiderei chiunque di voi, per quei soldi, a non andarsene in un'altra squadra. Sentite, fatemi il piacere, che è l'interesse a muovere le redini del mondo. Ma chi volete prendere in giro? Il cuore. Quel poveraccio ha avuto una grande proposta e l'ha presa. È la mentalità umana questa. Dio invece non ragiona così. E durante l'omelia mi ha raggiunto dal piano di sopra, dal Sole 24 Ore, l'oracolo del calcio e la finanza, oltre che tifoso del Napoli, Marco Bellinazzo, chi meglio di lui. Ciao Marco. Ciao Carlo, ero lì a seguire anch'io l'omelia. Assolutamente, l'ho seguita e sto riflettendo. Senti, allora ti faccio sentire qualche tifoso che sta dalla tua parte, sentiamo come l'hanno preso e poi mi dici qual è il tuo pensiero, se anche tu come De Luca hai incendiato con l'accendino la figurina di Higuain. Sentiamo. Come dice, c'è solo un miracolo di San Gennaro, perché sotto non può mai sapere quello che ci sta. Interessi da parte di chi? Possono essere interessi di Higuain, che fanno chi lo sì, chi lo no, chi lo sì, voglio rimanere, io voglio trovare, non voglio trovare. È tutta una bolla d'aria, non può mai sapere quello che ci sta su. E non è busta proprio, e la svelò. Siamo rimasti un poco delusi, non ce l'aspettavamo un fatto simile. Non sai quanto dispiacere ho avuto per fare questa statuina. Non avrei mai immaginato che un giorno lui poteva andare via da Napoli. Lo avremmo salutato. Lo avremmo ringraziato. Fatto così è come scappare quando uno scappa di notte. Questo posto di andare alla Juventus non va bene. Dappertutto, ma non alla Juventus. Marco Bellinazzo, d'accordo con loro? Beh, io insomma, ho cercato di elaborare il lutto da tifoso nel weekend, quindi oggi sono molto più tranquillo. Uh-huh. E prima di tutto, come dire, ho cercato di estrapolare la vicenda dalle passioni, no? Dalle passioni, sì, individuali, e guardare a quelle che sono o che possono essere le insostenibili leggerezze di certe clausole rescissorie. Cioè la clausola rescissoria è uno strumento neutro, ma può essere utilizzato in maniera, come dire, intelligente o stupido / controproducente. Cioè? Allora, inizialmente questa clausola rescissoria doveva scadere il 30 giugno e non era una scadenza qualsiasi, era una scadenza, diciamo, ragionevole per consentire, ora estraiamo dal caso Napoli-Juventus-Higuain. Sì. Se tu hai un giocatore importante, stabilisci una clausola molto alta a protezione, così certo, che ha fatto Barcellona con Messi, ok? La stabilisci però con dei termini molto molto limitati, perché se... Termini temporali. Temporali limitati, mm-hmm, perché se quella clausola deve essere esercitata entro il 30 giugno e può essere esercitata entro quel periodo, chi è interessato si fa avanti, la paga, ti arricchisci e tu hai quantomeno 2 mesi di tempo, certo, per impostare la ricerca di un sostituto. Se questa clausola, che pure si era detto quanto riguarda il Napoli, scadesse il 30 giugno, poi evidentemente non è così, se non ha limiti o addirittura limiti il 31 luglio, ma conta poco, mm-hmm, succede che qualcuno che può essere interessato a quel calciatore e disposto anche a pagare quella clausola ha molto più interesse a venire all'ultimo momento a pagartela, a lasciarti con il cerino in mano e a costringerti a quel punto, magari a 3 settimane dall'inizio del campionato, a cercare un sostituto che, se appartiene a una squadra che non ha una clausola, come dire, una squadra magari tua concorrente, non sarà mai dichiarato cedibile, e qualora venisse ceduto verrebbe ceduto a una cifra spropositata, perché sanno che tu hai in portafoglio quella somma. Sì, ma evidentemente era temporale la clausola, o comunque aveva una scadenza diversa, no? E non era il 30 giugno, perché la Juventus sta ragionando con Napoli a partire dalla clausola. Anzi, il Napoli si è messo nelle condizioni di essere con le spalle al muro, ed è la Juve quasi che concede una trattativa per delle contropartite. Un'altra cosa bizzarra di questa clausola, che me la devono spiegare, prevede che se paga il calciatore sono 94 milioni e 7. Sì. Se paga un'altra società sono 90 milioni. Mm-hmm. Ora dimmi tu, qual è il calciatore che da solo si paga la clausola? È evidente che c'è sempre un club. E perché tu concedi questo sconto di 4,7 milioni a un club che si vuole prendere il tuo migliore calciatore? Quest'altra è una bizzarria, me la devono spiegare, perché, sì, e ripeto, sto astraendo dall'emotività del caso Higuain, certo, perché certo. Non ha una minima, cioè ci sono due incongruenze logiche enormi che appunto mi fanno parlare di un'arma, come dire, con effetti collaterali enorme. Mi rendo conto, una parola sbagliata per di armi in questi giorni, mi scuso con chi ci ascolta, però arma economica, arma contrattuale, una clausola appunto di per sé neutra, che può tutelare una società, ma se usata in maniera, come dire, impropria, con imperizia, ti mette nelle condizioni in cui ora il Napoli, per cui ha dei soldi, ma, come dire, le controparti sanno che ha quei soldi, certo, e quindi chiaramente se vai dai Cardi ti chiederò 80 milioni per cederti Cardi. E poi magari non te lo do. A proposito di Cardi, partiamo alla caccia subito, alla caccia dell'eventuale sostituto di Higuain. C'è proprio il signor Vandanara in pole position, eh? Pronto Icardi, va ancora Icardi, col sinistro, vantaggio Inter, eccolo qua, primo gol in campionato per il bomber della scorsa Serie A, non sbaglia Maurito Icardi. Dunque, Icardi, c'è stato ieri questo nuovo approccio tra De Laurentiis, la signora Vandanara, e però l'Inter alza il muro e dice Icardi non si muove. Beh, non ha una clausola. Allora, partiamo dal presupposto che l'affare Higuain anche a 80 milioni conveniva farlo a Napoli, perché Napoli ha in bilancio scritta Higuain a meno di 10 milioni, significa fare una plusvalenza di 70-80 milioni per un 28enne. Certo. Si fa, piange il cuore ai tifosi, ripeto, lo sono, ma si fa quell'operazione. Così come sarebbe bello e conveniente economicamente e finanziariamente puntare su un centravanti importante di 23 anni, peccato che sia il giocatore perno di una squadra, peraltro direttamente concorrente, perché l'anno prossimo... Poi che ha appena cambiato proprietà. Che non ha bisogno di vendere, perché l'Inter ora si trova in questa situazione. Ha in qualche modo completato l'iter dei vincoli fair play finanziario 2016, sì, come abbiamo raccontato qualche settimana fa. Ci sono però degli altri vincoli 2017 che impongono di raggiungere il pareggio di bilancio. Ora, a livello cautelativo, nei documenti che l'Inter ha presentato, posto che, come dire, si fanno delle stime o delle proiezioni, si dice più o meno questi sono i ricavi, questi sono i costi, a livello cautelativo, per raggiungere quello zero, se proprio non riusciremo ad aumentare i ricavi o a diminuire i costi in maniera da trovare sto pareggio, faremo 50 milioni di plusvalenze. Erano le 50 milioni di plusvalenze, se ricorderai, Carlo, di Carlo Toir, che sono state spostate su questa gestione. Ora, senza Suning, l'Inter si troverebbe nelle condizioni, da qui al 30 giugno 2017, di dover fare 50 milioni di plusvalenze. Oggi Suning con delle altre manovre, tipo trovare dei partner commerciali, tipo mettere un marchietto sul frigorifero che vende nel suo negozietto, nei suoi 1700 negozietti, può aumentare ragionevolmente di 20-30 milioni di ricavi commerciali nel corso di quest'anno, magari anche un po' meno, ma non ha, voglio dire, la necessità finanziaria di farla quella plusvalenza. È chiaro. E quindi chiaramente qui è il muro contro muro, e questo, quindi da un lato ci sono le parole di Ausilio che spiegano di fatto poi questa ragione economica, dall'altro c'è Vandanara che cerca di far portare l'ingaggio del suo, certo, Maurito, di alzarlo da 3 da 3-2 attuali a 5-6 a qualcos'altro, senza dimenticare che aveva alzato già un anno fa. Allora ci fermiamo per il traffico un attimo. 800 24 00 24, il vostro contatto, e poi torniamo proprio su questo argomento. Tutti convocati. Convocati. Allora, Marco Berinazzo, Sole 24 Ore, è qui con me. Saluto e ringrazio, è un vero piacere. Appena d'oro del calcio sulla Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, mio amico peraltro. Ciao Gigi. Ciao, troppo buono. Allora, stavamo parlando io e Berinazzo di Icardi, dell'Inter, e vorrei allargare il discorso a partire dal fondo che scrivi tu oggi, dal titolo Mancini ha diritto ad avere delle risposte, in cui dipingi il ritratto, e dicevo prima, in maniera assolutamente plausibile, di un Mancini uomo solo, lasciato comunque solo da una nuova proprietà che è più o meno inesistente e che Mancini praticamente non conosce. Mi sembra una soluzione senza via d'uscita. Sì, è questo che un po' allibisce Mancini, ma io credo anche tutti, no? Anche l'uomo della strada, cioè, se ci pensi, non lo so. Io compro una casa al mare, la prima cosa che faccio è andare a vedere cosa c'è dentro, no? Comparla fisicamente, curiosare. Cioè, è veramente strano, riesce strano a spiegare perché una proprietà che riesce a comprare una società così storica come l'Inter, che è una cosa così diversa anche dai loro interessi, non sentono il bisogno anche di essere lì a bordo campo. Cioè, se io comprassi l'Inter, se tu comprassi l'Inter, io immagino che se io e te siamo lì come i pensionati fuori dai cantieri, certo, no? Certo. Che danno i consigli ai muratori. E cosa abbiamo comprato? Cos'è? C'è l'orgoglio fisico di essere lì. Ecco, la prima cosa che stupisce Mancini è non veder nessuno e non avere un interlocutore. Sì, ma Gigi, se magari compriamo la casa al mare, abbiamo molti soldi, abbiamo diverse case al mare e diciamo questa è un investimento, allora la prima cosa che farei io, per rimanere in questa metafora, è prendere un custode, no? Quindi la prima cosa che avrei fatto sarebbe stato prendere il mio uomo forte, chiunque esso sia, il mio rappresentante, possibilmente uno che conosca bene il calcio italiano e le sue dinamiche, e metterlo a fare la voce del padrone, se me lo consenti, a fare il presidente senza portafoglio, il presidente alla Boniperdi. Mi viene in mente Leonardo, ma è solo il primo nome che mi viene in mente. No, sono d'accordo, ed è quello che appunto fa andare di matto, io credo, Mancini, no? Proprio perché non riesce a capire come non ci possa essere un interlocutore, e il suo interlocutore sia il socio di minoranza in uscita, sì, che ovviamente ha i suoi interessi per far quadrare l'ultimo suo bilancio e andarsene con più soldi di quelli che ha messo. E quando lui dice invece il calcio, insomma, è passione, mettersi insieme di squadra, costruiamo insieme, chi possiamo prendere, ok, abbiamo dei problemi economici, vendiamo quello. Ecco, questo vuoto è quello che veramente lo fa andare. E tu dici bene Leonardo, cioè insomma il Paris Saint-Germain, quando hanno deciso poi, no, di investire e di acquistare, la prima cosa che hanno fatto è individuare un Leonardo, e quindi affidare a loro le chiavi, a lui le chiavi. Ed è quello che forse si aspettava anche Roberto. Prima comunque con Fassone un interlocutore ce l'aveva, certo, tramite... Certo. Economico ma anche tecnico, insomma l'estate scorsa hanno lavorato bene insieme, quest'anno è un altro mondo e non si capisce, se non c'è fiducia allora glielo dicano, può certo, glielo dicano. Vattene al 31 agosto quando c'è poi una squadra da costruire, ecco, è questo che è spiegato. Marco Berinazzo, dal punto di vista finanziario, hai una spiegazione dell'atteggiamento del signor Suning? Credo che qui stiano, come dire, venendo fuori quelli che sono i limiti e la, lasciami dire, l'inesperienza più che l'imperizia delle proprietà cinesi. Ma sono gli ultimi arrivati dal punto di vista degli affari. Degli affari no, ma sul calcio sì, e come dicevi tu prima nella metafora delle case al mare, per loro è un investimento, hanno messo la bandierina, è quello che gli chiedeva il governo di Pechino, e ora procederanno, come dire, a mettere anche gli uomini chiave a fare esperienza. Chiaramente ci sono altri tempi nel calcio, i cinesi come dire, operano con tempi molto più lunghi e soprattutto qui c'è anche una questione come dire, di responsabilità giuridico-finanziaria, giuridico-economica sul bilancio, sull'ultimo bilancio, e loro come dire, hanno fatto affidamento in questa fase di transizione su Toir, per quello Toir è rimasto presidente. Negli accordi c'era appunto anche questo aspetto. Ma non che questo tu sia stato il presidente più presente della storia. Assolutamente. E nemmeno a dirla tutta, il più competente. Però Toir si è impegnato. Beh, competente nel fare i suoi affari lo è senz'altro. Sì, perché i suoi affari, sto parlando dal punto di vista strettamente assolutamente, calcistico. Assolutamente no. Lui però ha creato diciamo una prima linea di manager che da un certo punto di vista in questa fase di transizione va bene anche per i cinesi, perché per esempio Bolingbroke viene dal Manchester United e il Manchester United è una realtà solida per i cinesi e quindi hanno fiducia in questa prima linea. Man mano ovviamente che metteranno oltre che i piedi nella società, ma inizieranno a capire com'è il giocattolo e gli incontri delle prossime ore sono molto importanti da questo punto di vista, chiaramente faranno delle scelte, vedremo delle novità, perché finanziariamente il progetto non si discute. Chiaramente noi abbiamo delle perplessità, io per primo, sulle tempistiche, perché le tempistiche dei cinesi, della proprietà cinese, cioè, non sono quelle sono cose del calcio. Sono cose che dovevi fare ieri, non dopo domani. Chiaramente, su questo non ci piove. Stavamo dicendo con Luigi Garlando, cui chiedo anche, saresti sorpreso Luigi se dopo questi incontri Mancini rimanesse all'Inter? No, non tanto, sono tanto sorpreso proprio perché... conosco anche la passione che ha per il lavoro, cioè lui chiede solo fiducia, ecco. Se dovesse capitare che un cinese si presenta e gli confermano questa fiducia, gli confermano uno straccio di mercato sostenibile, dicono due parole sul suo futuro, quindi su questo contratto in scadenza, lui sarebbe il più felice, io credo, di restare. Io ne sono convinto, anche se tutti lo danno per morto. Per me Mancini è vivo, però aspetta solo che qualcuno gli crei delle condizioni di lavoro. Se si continua invece a sentire insomma con questa necessità anche che lui si riallinei, no, non so se i cinesi lo vedano davvero come l'ultimo imperatore che debba essere rieducato, ma è una situazione un po' così curiosa. Se invece c'è semplicemente questa fiducia nelle sue capacità, insomma lui è l'uomo che ha ridato la vittoria all'Inter, insomma, gli ha insegnato di nuovo come si fa. Certo, quindi, è abituato a lavorare in un altro modo però. Sì, però non ha chiuso, ecco. Cioè io l'ho anche sentito, insomma, ho fatto una chiacchierata così, insomma, non è che c'è una chiusura di dire ok, mi hanno rotto, io scappo, sennò l'avrebbe anche già fatto. Sì. Però queste risposte devono arrivare, se no effettivamente molla. Luigi, tu oggi scrivi anche che insomma la cessione di Icardi potrebbe essere un passaggio obbligato. Marco Bernazzo mi spiegava prima che Surin non ha tutta questa esigenza di fare cassa attualmente. Dove sta la verità? Ma secondo me, insomma... Secondo me c'è una... Scusa che c'è mia figlia che mi sta... Ah, no, salutacela. Come si chiama? Si chiama Emma. Emma Garlando, ti salutiamo da Radio 24. Cioè, secondo me a Roberto sta una verità che è diversa di quella un po' propagandata, anche di non si tocca neanche per 100 milioni di Icardi. Insomma, a lui hanno detto che 50 milioni devono entrare. E quindi se non si fa l'affare Brozovic-Muriglio... c'è solo lui che può portare quella cifra, quindi lui non si aspetta che restino tutti, e anche questa è una cosa che però insomma dovrebbero dire in modo più chiaro, e Roberto si aspetta che lo dicano in modo più chiaro. Chissà se questa chiarezza arriverà oggi. Io saluto e ringrazio Luigi Garlando, che lascio ad Emma perché ne ha tutti i diritti. Grazie Gigi, alla prossima. Ciao, un abbraccio a tutti. Grazie. Giusto per chiusare giustamente le osservazioni di Luigi, è chiaramente su Ningora sta ragionando, a mio avviso, su quanti soldi di aumento commerciale può garantire e quindi quanti soldi in meno servono dalle plusvalenze, secondo quello che dicevamo prima. E credo che siano valutazioni che faranno con Mancini. Scusa Marco, ma dal punto di vista dell'immagine, allora il nuovo proprietario appena arrivato, io potrei capire se appunto il nuovo proprietario pensasse non cedo il capitano, non cedo il mio giocatore più rappresentativo, se è Icardi è il giocatore più rappresentativo dell'Inter, ma anche come mossa di immagine, può essere così? Credo di sì, guarda, se Ausilio si spinge a dire certe cose in maniera così categorica, credo che abbia, e lui ha i contatti, diciamo, con la proprietà, certo, cinese, a differenza di Mancini. Forse uno questo dei problemi: prima Mancini era abituato ad alzare il telefono e chiamare il presidente, il proprietario, chiamare oggi, il presidente e chiamare i giocatori che gli interessano. Oggi adesso gli hanno detto Yaya Touré non se ne parla, Candreva non più di 20, perché secondo me c'è anche una certa come dire valutazione che ha fatto su Ning. Magari lo stesso Touré, ma non lo dice, su quella che è stata, diciamo, l'efficacia delle operazioni volute da Mancini, nel senso che il quarto posto raggiunto l'anno scorso, tutto sommato, per Mancini o comunque per l'Inter è stato un progresso, si doveva raggiungere un altro risultato, tant'è che Touré poi è stato costretto a vendere. Se fosse andato in Champions, questa necessità sarebbe stata meno stringente, sì. E quindi magari non c'è proprio tanta fiducia sulle capacità, come dire, manageriali, non so, parlo di quelle tecniche. Allora, continuiamo nella caccia, torniamo al Napoli. Bisogna capire allora perché anche il motivo per cui De Laurentiis continua a dare la caccia ai Cardi, ultima puntata quella di ieri. C'è un altro giocatore che potrebbe interessare al Napoli, attualmente gioca nel Milan, è sul mercato, anni 29, ingaggio 3 milioni e mezzo, valore di mercato 25 milioni, richiesta quella di 30, si chiama Carlos Bacca. Pallone buono per Bacca! Carlos Bacca, una sentenza, 5 minuti, 1-0, 13 in campionato, che giocatore! E dunque, la seconda opzione potrebbe essere quella di Bacca, che Milan vuole vendere. Milan che è tornato all'epoca dei parametri zero. Non mi sembra che il Napoli però sia particolarmente attratto dall'attaccante colombiano. Sì, credo che più per ragioni, tra virgolette, di propaganda in questo momento, perché cioè? È l'idea di strappare Icardi all'Inter, così come la Juve ha strappato Higuain al Napoli, credo che sollecitichi molto De Laurentiis, perché in questo momento la piazza è depressa, arrabbiata, certo. E quindi sai, Carlos Bacca, anche perché viene considerato, come dicevi, un giocatore sul mercato che quasi nessuno vuole, nessuno prende. Il West Ham che è lì ed è tra l'altro inspiegabile, perché io credo che, poi non sono tanto bravo su questo fronte, ma gli esperti di statistica, di data football, ci potrebbero dire di come Bacca in realtà abbia segnato un gol, certo, e gol con una percentuale tale rispetto ai palloni toccati, in particolare in aria, che lo rendono sicuramente un giocatore di grande livello. Ricordiamoci che questo signore ha fatto vincere al Siviglia un paio di Europa League, insomma è un fior di giocatore, certo ha quasi 30 anni, però a quelle cifre, a 30 milioni, io non avrei dubbi a prenderlo, ecco. Allora, ci fermiamo per la borsa e poi torniamo per provare a chiarire la situazione del Milan. Ci sono anche diversi ascoltatori che scrivono chiedendo cosa Berinazzo, 349-238-6666, come ad esempio la situazione, aspetta che lo trovo, economica della Lazio, visto che Lotito nasconde i libri, scrive un ascoltatore, scrive questo o qualcosa del genere, perché il messaggio tra questi mille non lo trovo. Ce n'è un altro messaggio: Balotelli al Napoli non sarebbe l'ideale per tutti, scrive Geremia da Alessandria. E anche questa è un'idea che è venuta a Boris Sollazzo, che prenderebbe Tevez e Balotelli tutti e due in un pacco per fare questo attacco. Cioè aggiungere Cassano, se posso dire. Vabbè. Ne parliamo dopo però. A proposito di quello che hai detto prima in radio, tu hai detto che in Italia... La radio poi si cazzeggia. No, sì. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Beh, di solito gli amici immaginari sono meno inquietanti di così. I miei sono personaggi con i quali sono cresciuto attraverso la televisione, il cinema, i fumetti. Se volete, ve li presento. Sono Giovanni Savarese. Vi aspetto dal 6 agosto con L'Amico Immaginario, ogni sabato alle 23 e la domenica alle 14. Naturalmente qui su Radio 24. Dalla Brexit all'immigrazione, dall'Europa alla Cina, dall'Iraq a Molenbeek, tutti i temi più caldi dell'estate in un'ora di grande attualità internazionale. E poi le analisi e i racconti dei grandi eventi del nostro tempo. Risorse e materie prime, ambiente, cultura, letteratura, religione, al di là degli stereotipi e senza censure. Voi andate pure in vacanza, il mondo ve lo raccontiamo noi. Sono Giampaolo Musumeci, anche quest'anno, zaino in spalla, ho viaggiato e indagato storie e fenomeni. Ora riaccendo il microfono per raccontarveli. Se anche voi pensate che nessun luogo è lontano, vi aspetto dal 1 agosto, tutti i giorni, alle 16, qui, su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si ricomincia. Tutti convocati. Io sono qui con Marco Berinazzo, del Sole 24 Ore, massimo esperto di calcio collegato a finanza. Stiamo facendo anche del mercato, stiamo facendo anche, insomma, del sentimentalismo, utilizzando una... Sentimentalismo finanziario. Sentimentalismo finanziario. Un nuovo pianeta. Sì, sfruttando anche la fede napolista di Marco Berinazzo. Prima abbiamo detto Tevez, Balotelli, Cassano. Io ho detto Tevez e Balotelli, anzi, l'aveva detto Boris Sollazzo, perché è giusto dare a Boris quel che è di Boris. Marco Berinazzo ci ha aggiunto anche Cassano, mentre Stefano a Firenze ci aggiunge Edmundo e Cantona e la colonna sonora Ieso Pazzo di Pino Daniele. Io so che gli ascoltatori hanno gran voglia di intervenire su questi argomenti. 800 24 00 24, palla loro. Donato, buongiorno. Sì, buongiorno, io vado sulla sponda rossonera. Sì, ci andremo anche noi tra poco, sì. Io ne parlavo anche con qualcuno sul forum della Rosea online e sono molto perplesso su una cosa. Io non sono un mega esperto di finanza come anche Linazzo, però mi lascio estremamente perplesso che una società o un gruppo prossimo a rilevare, una delle più grandi società calcistiche d'Europa quantomeno, lasci carta bianca nel vendere l'attaccante numero uno in rosa. E questo viene venduto esclusivamente per fare cassa. Ora, tu che stai per rilevare una società e avalli serenamente la cessione dell'unico, in pratica dell'unico centravanti in rosa per far cassa e fare mercato, la domanda che viene un po' a tutti subito dopo è: ma quindi che fondi metti in cassa se solo per comprare altri giocatori ti devi privare del tuo giocatore numero uno? Perché un conto se fosse un esubero come, che ne so, Luis Adriano o Menez, che sono considerati di seconda fascia, ma vendi l'unica punta che hai in rosa, l'unica che ha funzionato, e non la vendi perché vuoi un attaccante migliore, ma perché devi comprare un difensore centrale, un centrocampista, e poi troverai qualche modo per tamponare, perché comunque la Padula è una scommessa tutta da dimostrare. Se sto per subentrare una delle più grandi società, è strano. Ecco, però, Donato, mi sembra che il problema stia a monte. In questo momento il mercato lo sta facendo Berlusconi e è tornato alla politica dei parametri zero. E se non si vende, non si compra. Quindi il contratto è ancora là dall'essere firmato. Sì, diciamo che c'è anche un altro aspetto che viene poco sottolineato sulle vicende del Milan, che è quello del fair play finanziario. Perché se l'Inter ha avuto dei problemi, è stato sanzionato come dire, deve muoversi tra questi paletti, è anche vero che il Milan, nel momento in cui tornerà in Europa, dovrà presentare il bilancio. Ricordiamo che, insomma, sono profondamente in rosso e quindi chiaramente si deve lavorare per presentare comunque un prossimo bilancio in, come dire, non dico inutile, ma perlomeno con un rosso. Presentare un bilancio accettabile. E sicuramente, tra l'altro, il Milan chiude il bilancio al 31 dicembre, quindi queste operazioni vanno calcolate con quelle di gennaio, quindi è ancora più complessa la questione. Tutto questo si è intersecato con i problemi di salute di Berlusconi, con una settimana decisiva in cui peraltro il mercato ha questa congiuntura negativa con Bollorei, che oggi dice non voglio più Mediaset Premium, ne voglio solo il 20% e manda a picco i titoli, e quindi infine si pensa a tutt'altro anziché ovviamente alla chiusura della trattativa, anche se da questo punto di vista mi dicono che tutto procede speditamente, che la deadline resta questa settimana, i primi giorni della prossima, che Berlusconi è sul pezzo, che la vendita del 100% è in addirittura d'arrivo. Ne parliamo da fin troppo tempo, lo è stata per Mr. B, lo è adesso per Zeng e Wu, il vero proprietario, diciamo il vero nuovo proprietario dovrebbe essere Zeng. Wu diciamo, ha un ruolo più di coordinamento, di advisor, avrà una partecipazione minore rispetto a quello che potrebbe essere l'assetto, poi il futuro assetto azionario. E di conseguenza tutti questi limiti fanno sì che si pensi, io concordo con quello che ci diceva l'ascoltatore, che non è proprio la mossa ideale quella di vendere il centravanti della squadra più importante così, come prima mossa. Però considerando tutti questi ostacoli, ci cerca di fare la cosa più semplice, si cerca di vendere l'uomo che ha mercato in questo momento, gli altri non ce l'hanno. Certo. Franco Ordine dal giornale, hai sentito cosa diceva Beninazzo? Ciao Ciccio. Ciao. Sì, sì, certo che ho sentito e mi pare che abbia avuto il quadro, diciamo, la fotografia della situazione, che mi sembra quella poi, insomma, descritta in questi giorni dagli organi di stampa. Io immagino che esiste questa distanza chilometrica tra quelle che sono le aspettative legittime in qualche modo dei tifosi che vorrebbero vedere subito i fuochi d'artificio in campagna acquisti e quelli che sono i tempi di questa trattativa, che hanno avuto tempi biblici da una parte, ma anche perché sono state cambiate sono stati modificati i termini essenziali della trattativa. Prima 70%, poi l'80%, che prevedeva un periodo di quasi un anno e mezzo con una governance mista, poi il 100%, mi dicevano i tecnici che hanno dovuto riscrivere completamente tutto il dossier, e quindi questo ha complicato. Poi secondo me c'è, diciamo, nella complicazione c'è una strozzatura che è determinata dal fatto che nessuna delle due parti in causa, cioè né chi vende Fininvest né chi sta comprando fondo cinese, hanno voluto rischiare di mettere sul tavolo una cifra che potesse consentire a Gagliani di fare mercato, perché se così fosse stato a quest'ora Piazza sarebbe stato rosso nero e probabilmente altre operazioni sarebbero state già concluse. Sì, si è creata questa strozzatura, come dici tu, questa discrasia tra i denari che Berlusconi non vuole, ma anche legittimamente, più spendere per una per una squadra, per un club, per un'azienda che comunque è in uscita, e dall'altra parte quelli che non hanno ancora messo i soldi. L'anno scorso, se la memoria non mi inganna, insomma, l'idea, si era partiti con l'idea di fare un mercato con i fuochi d'artificio, ed è stato dal punto di vista economico è stato fatto. Si era partiti con il fondo Doyen, che avrebbe, come dire, consentito l'accesso a tutta una serie di giocatori che si muovono in una fascia altissima del mercato. Poi con Dubiais è successo quello che ricorderete, insomma, che poi è andato all'Inter e questo ha creato malumori, il fondo dove si è allontanato, si è cambiato lo scenario, il Milan comunque i soldi li ha spesi, il campo ha detto che li ha spesi sostanzialmente male, ma soprattutto li ha spesi la Fininvest, facendo riferimento e facendo affidamento certo, su una chiusura di una trattativa e sul recupero di questi soldi. Quindi la Fininvest, tra l'altro, ripeto, con la vicenda di oggi, il Bolloré, così, ha tutt'altri pensieri, non vuole certamente impegnare altri 100 milioni. D'altro canto, i cinesi, prima di fare il closing, i soldi non vogliono metterli, e di conseguenza siamo in questa impasse. È il cane che si morde la coda, Franco Ordine. Tu parlavi di fuochi d'artificio sul mercato, qui non si vedono neanche i cerini, siamo tornati alla sana politica dei parametri zero. Sì, beh, quello è, diciamo, come il riferimento è a Arbolea. Quella è, diciamo, tra virgolette, una soluzione, come dire, una soluzione d'emergenza. Cioè, Gagliani ha fatto questo ragionamento: se qui dovesse continuare questo stato di immobilismo determinato appunto dalla mancanza di disponibilità economica, a quel punto, siccome è impensabile cominciare il campionato con senza nemmeno un acquisto, allora a quel punto comincio a tutelarmi e magari metto in stand-by un parametro zero che comunque può fare un campionato, una stagione, senza che sul bilancio pesi il costo del cartellino. Quindi, insomma, da questo punto di vista è una cosa, io penso che finirà così, nel senso che se non si sblocca l'operazione Bacca, difficilmente il Milan potrà fare acquisti di qualunque genere, non di primo, di secondo, persino di terzo livello. E quindi il campionato inizia tra 25 giorni, c'è la seria probabilità che il Milan si presenti al via del campionato con questa squadra, a meno che non riesca a vendere Bacca, perché non, anche il tempo rema contro. Certo. Insomma, quindi la possibilità è seriamente questa. Ciccio, grazie, ci sentiamo presto. Saluti. Grazie a Franco Ordine dal giornale. Ci fermiamo per la viabilità. Subito dopo c'è Nico della provincia di Pisa che aspetta da un po'. 800 24 00 24 è il numero verde. Tutti convocati. Tutti convocati. Tra poco con Marco Bellinazzo riparte la caccia al sostituto di Higuaín al Napoli. Nico, buongiorno, grazie. Nico? Vito? Vito. Ah, vedo scritto Nico, provincia di Pisa. E allora leggo così, la saluto Vito, dica. Non ho capito. Senti, io intervenire sul fatto di Higuaín alla Juventus, sono tifoso della Juventus. Sì. E allora sapere se con questo acquisto, sai, il cruccio della Juventus è la Coppa Champions League, no? E allora sapere se riusciamo a agganciare questi grandi club tipo Barcellona e Al Madrid e roba. L'obiettivo è quello, Nico, Vito. L'obiettivo è quello, cioè l'obiettivo è la Coppa delle Grandi Orecchie. Poi è chiaro che, lo ripeto per l'ennesima volta, mi fa morire da ridere chi fissa come obiettivo stagionale la Champions League. È chiaro che i grandi club, ci sono quei 7-8 giganteschi club, ristretta elite, di cui la Juventus ovviamente fa parte, ed è evidente, la Champions League è una, queste sono 8, no? Grosso modo, diciamo, sì. Le due spagnole, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, due o tre inglesi, City United, Chelsea, che quest'anno la Champions League non la fa, e la Juventus, il Gotha è l'elite. L'elite è questa, ed ogni anno l'elite ha l'obbligo di puntare alla Champions. Poi uno la vince, gli altri la perde. Per la Juve devo dire che questo mercato, non so, credo che sia il miglior mercato degli ultimi 20 anni, anche se verrà ceduto Pogba. Anche se verrà ceduto Pogba. 120 per Pogba, 125. Cioè, facciamo sconto al Manchester United di 5, facciamo 120. Cifra tonda, non puoi non vendere un giocatore a quelle cifre. Sarebbe record assoluto della storia del mercato. Credo che tutto... vedi, nel caso della Juve, tornando a Higuaín, non ha prima venduto Pogba, è andata poi sul mercato con 120 milioni. Prima ha comprato, poi prenderà. Ti faccio una domanda: ma può permettersi la Juve di non vendere Pogba? Credo che tranquillamente possa farlo, avendo ogni anno accesso a 70-80 milioni extra della Champions, perché comunque in Champions ci va. A 70-80 milioni fissi, o anzi quasi 100 dai diritti TV nazionali. Sta crescendo nei ricavi commerciali, e l'acquisto di questi grandi campioni faranno crescere questi ricavi. Lo stadio da 40-50 milioni. Insomma, l'obiettivo della Juve è arrivare, diciamo, stabilmente, esclusa, diciamo, la Champions, quindi i ricavi Champions, a circa 300-320 milioni di fatturato, per poter arrivare a 400 milioni di fatturato con la Champions. Quindi stare seduta stabilmente al suo tavolo nel ristorante di Contiana Memoria. Esattamente, appena sotto quella elite che supera i 400 milioni, e lì parliamo appunto del Manchester, delle due spagnole, del Manchester United, in parte anche del Manchester City, del Paris Saint-Germain, anche se loro si giovano, insomma, come sappiamo, di contratti interni. Però ecco, essere in quell'elite, ricordiamoci Calciopoli 10 anni fa, ricordo Calciopoli, insomma, per la situazione da cui ha dovuto ricostruire la Juventus, certo. Insomma, questo è il più grande successo della Juventus, ancora più importante, io credo, dei 5 scudetti o dei 6, dei 7, quelli che saranno, certo. Essere tornati lì anche economicamente. Certo. Pietro Napoli, buongiorno. Salve, buongiorno. Allora, volevo fare delle considerazioni. Sì. Io penso che Napoli, dalla cessione di Higuaín, potrebbe diventare ancora più forte. Eh? Ricava un bel po' di soldi. Hai soldi della Champions da spendere, e non penso che il presidente De Laurentiis non abbia altri soldi. Oltretutto, bisogna vedere se Higuaín l'anno prossimo farà ancora i gol che ha fatto a Napoli. Questo non lo sappiamo. Il merito non era solo suo, ma di un certo Insigne, di Mertens, di Hamsik, di Calehon, di Sarri. Sarri soprattutto, se fossi ai tifosi juventini io mi arrabbierei di più, perché stanno cedendo Pogba, un ragazzo giovanissimo di 20 anni che ha la prospettiva di diventare il miglior centrocampista del mondo. Vendono, attenzione Pietro, lei ha ragione, però vendono una prospettiva, in parte già una, la realtà di un giocatore di grande talento, vendono comunque la prospettiva, del più forte centrocampista del mondo, perché così dicono tutti da Zidane in giù, a 120 milioni di euro. E una prospettiva a 120, aggiungo 120 milioni di euro netti di plusvalenza. Sì, esatto. Cioè, perché sai, tu potevi anche vendere a 120 uno che l'anno prima hai comprato a 90. Certo, il discorso cambia. Qui sono 120 milioni di plusvalenza netta, salvo quei 2-3 milioni di argent de poche che sarà dato a Raiola, sì, per portare il giocatore, sì, sì, a Torino. Ma soprattutto vendi un potenziale problema, nel senso che Raiola lo vuol portare lì, lui vuole fare questa esperienza, avere un giocatore giovane scontento non va bene, la Juventus non vuole, anche per politica societaria, dargli i soldi che lo United è in grado di garantirgli, quindi mi sembra che da tutti i punti di vista è un affare comune a tutti, così come l'ascoltatore non ha torto, può essere un'opportunità anche la cessione di Higuain, perché non dimentichiamo che con la cessione di Cavani è stato costruito questo Napoli con Higuain. La storia del calcio italiano e mondiale se la andiamo a guardare con attenzione è piena di casi in cui venduta la stella, incassare dei soldi, poi è nata una squadra che ha raggiunto i successi che con quella stella non si sono raggiunti. Certo. In Italia ne abbiamo tante di storie così. È stato sottolineato come raramente la squadra del capocannoniere vince lo scudetto, almeno dei capocannonieri storici, da Toni. Napoli aveva bisogno, a Cavani stesso. Napoli ha bisogno di aumentare il suo fatturato come società. Il Napoli deve crescere da questo punto di vista, così come deve crescere in campo diciamo nell'organico, aumentando i suoi giocatori di qualità. Certo, allungando le rotazioni. Il problema è che per il momento sono arrivati solo Giaccherini e Tonelli. Sì, allora adesso arriviamo a bomba con i due nomi, sempre per quanto riguarda la caccia all'erede di Higuain, che secondo me sono i più intriganti dal punto di vista calcistico e dal punto di vista emotivo. Uno è l'ex idolo della Juventus che ora gioca al Boca. Morata, ancora lui per Vidal, poi attenzione a Tevez, parte la conclusione, rete! Carlitos Tevez! L'urlo della pace, altissimo, nel cielo di Dortmund, una saetta, un tracciante da 25 metri sotto l'incrocio dei pali, un lampo improvviso che ha accecato il portiere del Borussia Dortmund e la Juventus è in vantaggio per 1-0. Allora, apriamo il microfono. Allora, Marco Bellinazzi, anni 32, ingaggio 1,8 milioni dal Boca, che peraltro ha avuto anche le sue difficoltà. Facciamo 15 milioni al Boca per prendere Tevez. Un investimento chiaramente dal punto di vista finanziario non in linea con quella che sarebbe, insomma, un tipo di gestione voluta da De Laurentiis, ma che colmerebbe, ne parlavamo prima durante la pausa, e su questo siamo d'accordo, il vuoto emotivo, certo, di leadership. Però penso che Tevez non è Higuain, e quindi non verrebbe mai a giocare a Napoli, nel senso che lui ha fatto una scelta di vita sul Boca. E, sai, come argentino, sì, dovrebbe avere la strada spianata verso Napoli ed avere quel tipo. E poi le scelte di vita, magari per una stagione o due, si possono anche cambiare. Però, o rimandare, anche che perché siamo anche al Boca, insomma, abbia avuto anche i suoi problemi. No? E ci sono ora tanti problemi nel calcio argentino, insomma, di molti tipi, non solo economici, non ha problemi economici, quindi non farebbe una scelta di tipo economico. Bisogna capire se a 32 anni ha voglia di accettare una sfida come questa e le pressioni, perché poi arriverebbe come... Ma non mi sembra che Tevez sia uno assolutamente particolarmente no. semplicemente... allergico alle pressioni. No, le sopporterebbe, e capire se ha voglia di rimettersi in gioco. Certo. Non ci sono segnali in quest'ottica, però sarebbe fantastico, soprattutto dal punto di vista Tevez a Napoli, Higuain a Torino, Torino si scontrano. Che si scontrano e si scambiano praticamente la maglietta, due giocatori simbolo, ma ce n'è un altro di ex juventino che invece sarebbe in linea con altri parametri, ad esempio quello dell'età, ad esempio quello dell'essere futuribile, e potrebbe rappresentare in qualche modo il trade union, no? Con quello che il Napoli ha fatto in passato, venduto Cavani, prese Higuain, venduto Higuain, potrebbe prendere Vidal, che rimette in mezzo Pogba in area di rigore di testa, Morata, tiro a rete! Morata! E il canterano pareggia per la Juve al 13° minuto nel corso del secondo tempo. Anche qui, dal punto di vista emotivo, non sarebbe affatto male. Il problema è l'attuale proprietaria del cartellino, del contratto di Morata. Ingaggio 2 milioni e mezzo, con l'età ci siamo, 23 anni, giovanissimo, è un talento già sbocciato, nonostante quest'anno abbia giocato con intermittenza. Potrebbe fare la stessa fine anche a Real Madrid la prossima stagione, cioè giocare ad intermittenza, ed è una cosa che un giocatore di questo livello, di questa età, non ha bisogno, certamente. Valore di mercato una quarantina di milioni, si dice, ma pare che Real Madrid ne abbia rifiutati 70 dal Chelsea, che con Conte che lo vorrebbe a tutti i costi. Mi sembra forse un sogno impossibile. Sì, credo di sì. Ma tu, perché Real Madrid credo stia ancora valutando il da farsi? Io credo che in parte potrebbe anche scegliere a un certo punto di puntare su Morata al posto di Benzema. Anche perché poi l'età avanza per Benzema, uh-huh. E quindi poi andare a sostituire Benzema tra qualche anno significherebbe andare a spendere tanti altri soldi, mentre per una volta, diciamo, per una volta il calcio spagnolo vive di cantere, no? Sì, però sì. Avresti in casa un sostituto già pronto, che non dovresti nemmeno mandare a fare esperienza all'estero nella squadra B, e lì già pronto tu dici non ho bisogno di soldi, perché venderlo? Quindi a quel punto, sai, se il giocatore peraltro non mi sembra scontentissimo di tentare l'esperienza madrilena e di affermarsi in casa sua, credo che con le condizioni da questo punto di vista siano molto improbabili per arrivare a Morata, sì. Anche se calcisticamente, insomma, non si discute. Luca, buongiorno. Salve, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Volevo solo salutare, abbiamo 30 secondi, dica. Volevo solo dire del Suning, che secondo me tutto sommato fa bene, non avendo nessuna esperienza nel campionato europeo italiano, ad affidarsi a Toir, tutto lì. Ma volete che si affidi, sì, che entri Suning e mettano mano loro? No, assolutamente, però non mi sembra che Toir poi possa essere, che non è stato qui tantissimo, non è esattamente un manager calcistico a tutto tondo. Io direi che una figura, torno a ripetere, ma è un'esemplificazione, una figura alla Leonardo sarebbe qualcosa di profondamente il problema diverso. semplicemente che dovrebbe sconfessare tutti gli acquisti sulla prima linea di management che ha fatto negli ultimi sì. anni, e quindi tutti gli ingaggi che sta pagando da quel punto di vista, quindi esatto. Insomma, non è esattamente l'idea migliore. Marco, grazie, alla grazie prossima. A voi, a presto. Grazie a Marco Merinazzo, ci fermiamo per il GR, torniamo subito dopo con le pagelle di Marino Bartoletti e molto altro. Non mi fate diventare antipatico, perché io quando comincio a fare un professore, se mi fate diventare subito antipatico, cagacazzi e compagnia bella. Tutti convocati. Che dire, arieccice. Tutti convocati. E siamo, come annunciato prima, del GR, ad uno dei miei momenti cult, uno dei momenti cult della mia settimana, di quella di tutti i convocati, cioè le pagelle del maestro Bartoletti. Ciao Marino. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao a tutti. Ma ci siamo ricordati di fargli auguri a Mick Jagger? No, non ci siamo dimenticati di fare gli auguri a Mick Jagger. Se vuoi poi ti do l'elenco di canzoni che in qualche modo ha dedicato e scritto al calcio italiano. Sì, dal momento che sta attraversando. Dimmi la prima. Che la beh, guarda, Tell Me, sì. In realtà era la storia di un amore che si ricomponeva, ma tradotto in italiano dall'Equipe 84 e dedicato a Higuain e al Napoli, è Rendimi tutto quel che ti ho dato, fallo cercare perché può servire. Sì, adesso la cerchiamo. Oppure subito. Paint in Black per l'Inter, ma vedi tu. Paint in Black per l'Inter, non mi sembra male. Io ti voglio, allora, partiamo dai tre anelli di questa di quest'estate del mercato. Higuain alla Juventus, il probabile Pogba, o quasi certo Pogba, al Manchester United, e l'anello che contiene la X, che è il nuovo attaccante del Napoli, De Laurentiis. La Juventus è molto intelligente e la Juventus capisce che non può fare questo torto. La Juventus, signori, è una società di razza, non è che è arrivata sul mercato ieri o l'altro ieri, sono decine e decine e decine di anni, hanno vinto tanti scudetti, quindi sa perfettamente che è una battaglia persa, perché diventerebbe una squadra estremamente antipatica. Intanto in Napoli sta cercando Icardi, che fino a prova contraria è un giocatore dell'Inter. Qui abbiamo sentito un De Laurentiis di qualche giorno fa, poi ovviamente superato dai fatti. Io a Marino Bartoletti volevo chiedere una pagella per chi ha comprato, cioè la Juventus o il Manchester United, poniamo a 120 per Pogba, e una pagella e un voto a chi ha venduto per queste cifre. Guarda, sono pagelle alte, perché la Juventus ha fatto il colpo del secolo vendendo Pogba, praticamente vincendo una Coppa dei Campioni in termini economici. Mi vergogno naturalmente a parlare dopo il maestro Marco Bellinazzo, però a questa cifra non soltanto non puoi non trattenerlo, ma come ha scritto qualcuno, glielo porti assieme alla bicicletta col cambio Shimano e con la batteria di pentole e col doppio materasso. Sì. E su quello puoi veramente creare una squadra addirittura più forte di quella che sia. L'orientamento comune è dire cosa giochiamo a fare questo campionato. Se vuoi provo a fare l'avvocato del diavolo, ma è un diavolo con le corna spuntate naturalmente, perché sembra un campionato veramente già scritto, ed è chiaro che le ambizioni della Juventus vanno ben oltre il campionato. Succede però che nel 1982-83, quando la Juventus ha praticamente la nazionale italiana campione del mondo, sì, almeno 6 o 7 persone più Platini e Boniek, curiosamente non vince quello scudetto. Quindi tutti possono toccare ferro, sia gli juventini che gli anti-juventini, ma il calcio per fortuna è un'alchimia assolutamente misteriosa. E se la ricordano bene i tifosi anche dell'Amburgo, quella stagione. Assolutamente sì. E io c'ero, sai, quella notte ad Atene. Lo so. E otto anche al Napoli. Il Napoli deve far diventare la pietra filosofale, quindi tramutare in oro quella che sembra una sconfitta morale, sentimentale, tutto quello di cui si è parlato altrove, soprattutto nella tua trasmissione. Però vale lo stesso discorso, no? Per quei soldi vendi, giusto? Sì, ma cioè, come fa a non essere felice e fortunato una squadra che si ritrova 95 milioni di euro in tasca? È chiaro che qui, come direbbe padre Dante, qui si parrà la tua nobilitate, cioè è qui che si vede se veramente questa società che Aurelio De Laurentiis ha preso in un cassonetto 12 anni fa, esattamente 12 anni fa, avrà la forza di far diventare quello che è sempre stato un progetto legato a un uomo, a un demiurgo, un progetto legato effettivamente alla forza della società. Io vedo il bicchiere mezzo pieno, sinceramente. Sì, io addolorato come i tifosi napoletani, anch'io farei i post, non tutti eleganti, alcuni molto divertenti che sono stati fatti, però insomma Higuaín da mercenario è arrivato al Napoli, da mercenario se ne va dal Napoli, non so con che faccia si presenterà a Napoli, ma sono veramente affari suoi. Mi viene da dire che comunque nel rapporto d'amore fra Napoli e Higuaín è più quello che ha dato il Napoli a Higuaín che non viceversa, che ha sempre dimostrato una discreta frigidità nelle cose. Verissimo maestro. Allora, adesso ti chiedo un voto che non riguarda il calcio, ma il Tour de France, e lo diamo, lo introduciamo con queste parole di Fabio Aru. Sicuramente una corsa vanorata sino alla fine, ma sinceramente il risultato al traguardo non è quello che mi potessi aspettare o la gente si potesse aspettare da me. Ne prenderò atto, mi servirà come insegnamento per il futuro. Altro non so cosa dire in questo momento, sinceramente. Da uomo di ciclismo, Marino Bartoletti, ieri parlavo di quanto ha scritto Gianni Mura, che scrive anche oggi peraltro, ieri sotto il titolo è un tour per ragionieri, è una corsa in crisi. Io ti chiedo un voto al tour e un voto alle due stelle italiane che non sono riuscite a brillare, una è Aru e l'altra è Nibali, per ragioni diverse. Allora, il voto al tour è 6, ma è frutto anche di un discreto rosicamento, sinceramente, perché a noi le cose piacciono quando ci vengono bene, siamo disposti a dare i voti alti, è impossibile non riconoscere la bravura e la superiorità di Froome. Certamente abbiamo visto dei campioni più brillanti vincere il Giro d'Italia o il Giro di Francia, a cominciare dal Nibali che ha vinto i suoi Giri d'Italia e dall'Aru che ha vinto la sua Vuelta. L'unico personaggio che ci ha fatto veramente divertire al tour è stato Sagan. Peter Sagan, sinceramente. Su Froome poi si aprono, se mi consenti, anche delle parentesi, come dire, etiche che mi infastidiscono un pochino. Allora, riconosciuta la sua forza, riconosciuta la forza enorme, devastante della sua squadra, che è un po' la Juventus applicata al ciclismo, che però, come a volte accade alla Juventus, gode anche di favori non richiesti e immeritati, sinceramente, perché la vicenda del sgradevolissima che rivaluta tutto quello che accade al Giro d'Italia, del tamponamento della moto di ripresa e quindi dell'azzeramento dei tempi, sì, insomma, non è stata sinceramente dal punto di vista giurisprudenziale qualcosa di straordinariamente democratico. Mm. Il pugno in faccia dato da Froome al tifoso è stata una cosa che in altri tempi e in altre occasioni sarebbe stata ed è stata sanzionata con l'espulsione. Sì. Allora ha vinto il migliore, però se lo facciamo diventare ancora più migliore con gli aiuti che in qualche modo non merita, è chiaro che comunque, come dire, il piacere di vedere l'imprevedibilità dello sport poi va a farsi benedire. Certo. I due italiani, io adoro il fatto, te l'ho sempre detto, che i due migliori ciclisti italiani vengono dalle due isole, cioè sì, della Sardegna e della Sicilia, il che vuol dire che Garibaldi non ha operato in vano. Il prossimo anno, fra l'altro, il giro comincerà dalla Sardegna finalmente, non dall'Olanda o dalla Danimarca o dal Botswana. Nibali secondo me ha fatto più o meno quello che gli era richiesto, mi sarei aspettato il grande acuto in cui una volta accumulato il ritardo che aveva accumulato poi avrebbe fatto la grande vittoria che ha sfiorato, per la verità. Aru viene rivalutato secondo me anche dalle parole che abbiamo appena sentito, cioè dalla umanità straordinaria, dell'umiltà straordinaria di questo ragazzo che ha veramente tutta la vita sportiva davanti. Questo non è soltanto un ottimo corridore, un giovane ottimo corridore che è in grado di migliorarsi, di fare esperienza, è un ottimo ragazzo con un'ottima famiglia alle spalle. Sono sicuro che anche di questo lui saprà trarre lezione. Il voto suo è insufficiente per quanto riguarda questo giro, ma come diceva il grande Fabrizio De André, dai diamanti non nasce niente, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Aspetto sempre, rendimi tutto quel che ti ho dato dell'Equipe 84. Certo. Allora, ti chiedo invece un ultimo voto. Magari Aru e... Ieri abbiamo parlato con Cassani. Aru e Nibali li aspettiamo a Rio. Certamente non è un'Olimpiade che nasce sotto una splendida stella. Tu di un'Olimpiade te li intendi forse come nessuno. Malagò. È chiaro che qui, come ti muovi, qualcuno lo scontenti o qualcheduno non è d'accordo. Però mettere tutti quanti in un unico calderone secondo me sarebbe sbagliato. Ci sono moltissimi atleti russi che sono non solo puliti, ma hanno delle eccellenti carriere alle spalle, di anni, se non di decenni, sottoposti a test di doping e di antidoping molto importanti, e secondo me non era giusto assolutamente precludere. Eccola qui Marino, non so se per addolcirti. Come consulente musicale questa radio che mi è tanto cara. Assolutamente. Chissà se ha dato più il Napoli e Higuaín o Higuaín al Napoli. Io credo il Napoli e Higuaín. Non lo vedo benissimo lontano da Napoli. Malagò è la vicenda russa. La vicenda russa è un'Olimpiade che nasce sotto una pessima stella. Già ho sentito un brivido allora, prima. Mi sembra che Ponzio Pilato sia fra di noi in questo caso, ma c'è stato spesso nei casi delle Olimpiadi, se vogliamo parlare, delle decisioni prese dal CIO, dalle parole di Malagò, eccetera, eccetera, eccetera. Tu saresti stata per l'esclusione tout court della Russia, che ha praticato, ormai si può dire, il doping di Stato. Beh, insomma, guarda, io sono un buonista, quindi alla fine poi sono sempre pronto a mettere la mano sul fuoco e Dio sa quante me ne sono bruciate, soprattutto seguendo tanti campioni che ho amato. Però sai, o si dà veramente una lezione o si ha veramente il coraggio e la forza di dare una lezione, se no è il primo Putin che passa, batte i pugni sul tavolo, immediatamente i leoni e le tigri diventano dei chihuahua. Io ho seguito tutte le Olimpiadi fino a Londra, quindi una piccola esperienza ce l'ho. La mia prima Olimpiade, penso un po', fu quella di Monaco 1972, provo a immaginare che battesimo del fuoco. Fu la prima Olimpiade in cui si parlò, o meglio, si parlò soltanto dopo di sicurezza, per la verità, perché certo, i criteri di sicurezza vennero molto mal applicati. Sembra sembravano a rischio anche le ultime due, quella di Pechino e quella di Londra, probabilmente lo sono stato, ma probabilmente c'è stata una contraerea, un'intelligence che ha evitato il peggio. In genere, te lo dico per esperienza, nei grandi avvenimenti sportivi difficilmente chi vuol fare delle cose clamorose le fa, perché capisce che è quasi sempre controproducente anche nella sua perversa logica, chiamiamola così. Certamente il Brasile, che non ricordiamolo, è la seconda, il secondo paese nella storia che ottiene l'accoppiata mondiale e olimpiadi, la prima volta accade con la Germania nel 72 e nel 74, questa volta col Brasile, corre dei rischi che sono soprattutto di carattere sociale, secondo me, più che di carattere di ordine pubblico, se lo vogliamo chiamare così. Il Brasile ha ottenuto queste due manifestazioni quando era un paese in piena espansione, in totale ricchezza, e guardava con ottimismo al futuro. Se le ritrova in casa in momenti in cui invece effettivamente ha qualcos'altro a cui pensare che non a terminare gli infissi e i bagni del villaggio olimpico. E quindi sono Olimpiadi a cui guardo con un po' di apprensione. Quindi il voto a questo periodo preolimpico è necessariamente basso, sperando che si alzi. È un 5 di stima, sperando naturalmente di cambiare idea, grazie alle medaglie, chissà quali, che vinceremo, grazie alle emozioni che ci verranno dato, grazie a tutto quello e alle speranze a cui ci attacchiamo in questo momento. Marino, grazie, come sempre. Mi raccomando gli auguri, amica, mi raccomando. Auguri a Mick Jagger, naturalmente. Anzi, Satisfaction forever. Satisfaction forever, anzi, chiuderemo proprio così. Anzi, cercatemela, ciao, ragazzi, perché chiudiamo così. Grazie, Marino. Ciao, un abbraccio. Gianluca, Napoli, buongiorno. Buongiorno a lei e complimenti per la trasmissione. Grazie. Ricca di spunti interessanti. Volevo dire, il Napoli ha una struttura societaria snella, la quale dovrebbe consentirle di prendere processi decisionali abbastanza veloci e soprattutto ad avere costi inferiori rispetto ai propri competitor. Detto questo, siamo ormai nel mese di luglio, tra poco inizierà il mese di agosto, e di calciomercato gli acquisti del Napoli sono stati solo Tonelli e, se non erro, l'esterno della nazionale. Sì, Giaccherini. Giaccherini, sì, non mi viene il nome. Lei ritiene che questi acquisti siano soddisfacenti, visto che, e poi soprattutto, non sarebbe stato giusto programmare il calciomercato già da marzo in modo da dare a Sarri una formazione già degna di questo nome? Sì, ne abbiamo parlato ieri e sono parzialmente d'accordo, perché è chiaro che l'affare Higuain non si è concretizzato in poche ore né negli ultimi giorni. Il Napoli si è fatto trovare un po' impreparato, diciamoci la verità, anche a questa cascata di denaro che le è piovuta, come era prevedibile, come doveva essere previsto, che è caduta addosso. È evidente che, così com'è ora, è una squadra che esce notevolmente indebolita dal mercato, ma al di là del fattore tempo, che non è secondario, sono certo che non è questo il Napoli che si presenterà il 20-21 di agosto ai nastri di partenza del campionato. Francesco, buongiorno. Buongiorno, volevo tornare un attimo indietro sul fatturato della Juventus, evidenziando che manca ancora all'appello lo sponsor ufficiale dello stadio. Uh-huh. E quindi un nome, e quindi volevo sapere se conoscevate qualche trattativa in corso sull'eventuale nuova. Io no, si è parlato di molti nomi, magari Berinazzo la prossima volta che arriva ne sa qualcosa in più. Lei ha ragione nel sottolineare anche questo fattore, perché come sappiamo tutti i grandi stadi europei hanno una copertura assicurativa, pensando alle varie Allianz Arena, però insomma una copertura danarosa per dare nome a uno stadio che in questo momento alla Juventus manca dal punto di vista della sponsorizzazione. Riccardo Trevisani da Sky, buongiorno, che piacere. Buongiorno a voi. Ciao Ricky, senti, io con te vorrei allargare il fronte all'Europa. Non è stato difficilissimo prevedere un mercato così danaroso e così costoso in questa stagione, perché molti dei maggiori club europei hanno cambiato allenatore e l'allenatore che arriva vuole i suoi giocattoli. Al di là di Pogba destinato a Mourinho, tu che cosa immagini per quanto riguarda ad esempio Conte, per quanto riguarda un Real Madrid che ha sì ripreso Morata ma non ha incastonato il solito gioiello? Ti aspetti qualcosa di ancora rumoroso? Beh, qualcosa sì, mi aspetto un attaccante per il Paris Saint Germain, mi aspetto un colpo madrileno per il Real Madrid, mi aspetto, quando dico madrileno intendo ovviamente ad effetto, Mi aspetto ancora di vedere comunque Pogba andare al Manchester United, lo aspetto tanto, perché se è vero che negli ultimi anni in Italia siamo sempre stati a guardare, invece in questa stagione il mercato italiano è stato molto movimentato dal lavoro della Juventus, vuol dire che se noi non siamo comunque ancora quelli più ricchi, gli altri sono più ricchi, prima o poi dovranno fare qualcosina. Devo dire che insomma lo United ha regalato delle discrete perle, perché prende Ibrahimovic, adesso sta prendendo anche Pogba, aveva speso tantissimi soldi in passato, ha preso Belì, insomma la squadra che si è mossa anche parecchio, ma è vero pure che la differenza di queste squadre che abbiamo nominato con la Juventus è che queste squadre dovevano, tra virgolette, cambiare e ricostruire. La Juventus era già piuttosto forte per conto suo, e nonostante questo ha preso, cambiato e migliorato la squadra ulteriormente. Lasciami essere malizioso, come sono stato nei giorni scorsi, curioso notare come lo United di Mourinho si sia ampiamente affidato ai servigi del signor Raiola, pur essendo normalmente le squadre di Mourinho sotto un'altra galassia, cioè sotto il potentissimo Jorge Mendes. Sì, diciamo che a un certo punto credo che servano i calciatori, nel senso, a prescindere dal loro procuratore, anche perché negli anni, nel tempo, Mourinho e Jorge Mendes hanno lavorato talmente tanto insieme che non credo abbiano bisogno vicendevolmente di collaborare per arrivare alla fine del mese, e quindi obiettivamente servivano calciatori forti. Pogba è un calciatore forte, Ibrahimovic per ricostruire è una garanzia, perché come sappiamo ogni anno della sua vita, tranne uno, ha vinto il campionato, e quindi ripartire dalle certezze è un buon modo per ripartire, specialmente per una squadra che nel tempo ha sempre tanto faticato recentemente a ricostruirsi. Noi siamo abituati a vedere uno United molto diverso da quello che è quello degli ultimi 3 anni. A me fa impressione, sono cresciuto da piccolo col mito dello United di Ferguson, certo. E sono 20 anni che vedo quel Manchester. Vedere quest'ultimo Manchester è un po' come vedere quest'ultimo Milan, una cosa completamente in distonia con la realtà degli ultimi 20 anni. Certo. Ricky, per un'ultima cosa, faccio partecipare anche a te a questa caccia che ci siamo inventati oggi al sostituto ideale dal punto di vista tecnico ed emotivo di Higuain. A me i due nomi che rimbalzano in testa sono Tevez, ovviamente con un certo profilo economico che sarebbe assolutamente plausibile per un Napoli straricco, l'altro Morata che vedo più difficile, però sono i due giocatori che dal punto di vista tecnico ed emotivo possono davvero lenire qualche ferita nell'anima. Aggiungo Icardi, perché secondo me vorrebbe dire per il Napoli praticamente togliere di mezzo l'Inter per una lotta a Champions, e quindi garantirsi di andare ancora una volta in Champions pure l'anno prossimo. Anche se continuo a pensare che la trattativa Icardi non arricchirà l'Inter, non arricchirà il Napoli, ma arricchirà solo Icardi. Per quello che riguarda Tevez, sarebbe un bellissimo nome, affascinante, ma un giocatore che è in là con gli anni, e non so quanto potrebbe dal punto di vista tecnico fare quello che ha fatto Higuain, che ricordiamo ha fatto 36 gol. Dal punto di vista invece di Morata, mi affascina molto questa chiamata, perché Morata è uno giovane, forte, bello da vedere, che può infiammare Napoli, che arriverebbe con la voglia magari di dimostrare alla Juve di essere meglio di Higuain, e quindi verrebbe accolto bene in una specie di scambio, certo, Higuain-Morata, certo, da Juve e Napoli. Solo che da quello che so io il Real non lo molla, ha rifiutato anche 70. Tantissimi soldi, ma tantissimi, dal Chelsea. E quindi non so se il Napoli andrà a spendere 70-75 per l'attaccante, ricordando però che il Napoli, tra i soldi della Champions, quelli di Higuain, ha un tesoretto che forse neanche il Barcellona e Real Madrid in questo. come no. Grazie Riccardo, grazie buon lavoro. A voi. Alla prossima, Riccardo Trevisani da Sky. Maurizio, buongiorno. Buongiorno a lei, signor Genta. Dica. Sono un assiduo radiospettatore di Radio 24 in generale. Bravissimo, grazie. A lei. Capisco che lei sta molto contento, si sta fregando le mani perché essendo juventino, quindi io non sono juventino. Si sente a 800 km, caro gente. Allora si sente male. Percepisco comunque. Guardi, le giuro che percepisce male. Guardi, che io ho 65 chiedere... anni. Non è una questione di età, ma al di là di questo. No, io ho 65 chiedere... anni e sono un vecchio, io pratico allo stadio, io vado quando avevo 7 anni, figurati, da Vinicio fino dal Vomero fino a, figurati un po', io ne ho viste di cotte e di crude. Comunque, volevo andare al sodo della questione, capisco che stanno avvicinando le 15:30. Volevo dire, il coniglietto che ancora non ha parlato, che sfugge, che sfugge, non ha ancora parlato, perché non può parlare, dovrà spiegare parecchie cose, sia a noi e sia ai non colorati. Le dico subito, a noi esigiamo esattamente quello che è accaduto, vogliamo sapere quello che è accaduto, perché lui ha giocato fortemente con i nostri sentimenti, e per noi, almeno noi del sud, i sentimenti sono qualcosa di importante, poi non so per gli altri. Sì. È come se fossi un cornuto e compagnia bella, è così è, io così la vedo, poi ognuno pensa a se stesso. Deve dar conto a noi che io a 65 anni ho pianto sotto la tribuna, perché ho capito che lui proprio negli occhi, io l'ho visto proprio negli occhi da vicino, veramente ha sposato la nostra causa e compagnia bella. Ma di questo è sicuro, Maurizio, perché io sono d'accordo con Marino. Perché altrimenti finisce il la faccio concludere, però è sicuro di questo, perché io sono d'accordo più con Marino Bartoletti, che mi dice che è sempre stato un po' frigido Higuain nei confronti del Napoli. Ha giocato con i sentimenti del mister, il mister l'ha chiamato, lui deve spiegare al mister che cosa è accaduto, ai compagni che l'hanno aiutato a fare 36 gol, ma non solo, ma dovrà spiegare il coniglietto quando farà la sua conferenza stampa al popolo non colorato, perché il coniglietto dopo Udinese Napoli, che becco 3 giorni di squalifica, perché io so tutto, gente, e poi dopo alla fine vi dico anche una chicca di mercato, se lei non sa ancora, fresca, non sono presuntuoso, il coniglietto dovrà dire perché ha detto quelle parole, che ora capisco perché i non colorati vincono con i poteri forti. Questo lo dovrà dire a loro. E non solo, anche il fratellino dovrà dire, e tutto quello che ha detto da marzo in poi sui non colorati. Sì. E lui dovrà spiegare, là mi viene da ridere, e non mi faccia ridere, lui il coniglietto, non mi faccia ridere che sta scrivendo la lettera, perché come dice il nostro grande Totò, vicino all'ufficiale tedesco, e si pulisca il culo. lo so che sta ridendo. Mi dica la bomba di mercato. Il Napoli sta per concludere Icardi e Jackson Martinez. I polpettoni che avete nominato fino ad ora. La domenica a Napoli si fa il mercato delle pulci. Ah, quindi Morata è un polpettone? No, è scusa Morata. Ecco, io se fossi in De Laurentiis prenderei tutti e 90 milioni. Farei proprio un contro. Proprio un altro schiaffo ai non colorati. Lo un contro blitz. Con tutti i 90 milioni. Beh, anche Tevez non sarebbe uno schiaffo da poco. Anche se lei vuole mettere al mercato dei Pucci, non sarebbe comunque, dal punto di vista emotivo, uno schiaffo da poco. Maurizio, io la ringrazio, è stato molto simpatico, devo dire. Bene. Anche se io non sono juventino, questo glielo posso garantire. Antonio, la prego, ci sentiamo domani, che il tempo è scaduto. Mi spiace tantissimo, se domani vuole, primo della lista. Grazie Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Alvise Falzoni in redazione. Ci sentiamo naturalmente domani dopo GR Europa, siamo qui per voi. Solo chiacchiere, solo un mare di ciacole, chiamiamole ciacole per essere educati.